Ponte Radio. In diretta da Radio Neanderthal, Ponte Radio, spazio condiviso tra 7 radio autogestite, Onda Russa, Quar, Wombat, Eustachio, Spore, Blackout e Neanderthal, condotto a rotazione ogni venerdì dalle 13 alle 15 a segnali unificate di tutte le radio che lo compongono. Oggi tocca a noi di Radio Neanderthal. Buon ascolto. Allora, ci siamo in diretta da Radio Neanderthal per questo Ponte Radio del venerdì 21 novembre. Noi siamo in regia, è il vostro Aramis che vi parla, in compagnia di me ci sono anche Gianturco e il Metallo, che dopo ci farà un approfondimento addirittura sui giocatori oriundi che hanno poi militato nelle squadre italiane, e oggi proveremo a parlarvi un poco di migrazioni, un tema molto complesso, problematico, che viene anche da un'esigenza, anche, lo devo dire, molto personale, perché è molto faticoso, stancante doversi relazionare con le persone che continuano a vedere i migranti come un problema. Addirittura l'altro giorno mi sono trovato in una discussione con un vecchio signore del mio paese che mi diceva: ma tu li vorresti i migranti a casa tua? E io gli ho risposto: ma a te ti piace comprare le pummarole a 1 euro al chilo? Bene, se le puoi comprare perché c'è qualcuno che le va a raccogliere per pochi centesimi. E quindi, per cercare di spiegare questa, diciamo, quello che c'è sotto questa strategia di sfruttamento dei migranti, abbiamo deciso di partire un po' da lontano, perché è difficile poi, quando ti trovi a parlare con persone comuni che non la pensano come te, riuscire a spiegare la lunga storia di sfruttamento e anche razzializzazione delle persone che provengono da altri paesi e che si inseriscono nel nostro mercato del lavoro, proprio perché i nostri governi, le nostre industrie, la nostra produzione ne ha bisogno. E allora, per iniziare a raccontarvi io questa storia, penso che sia importante avere una prospettiva che riesca a inquadrare la complessa storia europea, perché la storia europea è una storia che è fatta innanzitutto di creazione di identità attraverso il rapporto con l'altro. E sto parlando dell'altro coloniale, perché l'idea di razza per la prima volta viene applicata agli indios durante l'invenzione dell'America, cioè a quelle popolazioni che vivevano in quelle terre che sono state scoperte a partire dal 1492. Ma è con la tratta degli schiavi che l'idea di razza si interseca con il colore della pelle e diventa un meccanismo che, attraverso il capitalismo, è in grado di estrarre valore dalle esistenze e soprattutto sostenere il nuovo sistema globale di cui l'Europa è il centro e le colonie sono la sua periferia. L'intreccio tra razza e capitale è l'elemento che spesso sfugge a coloro che vorrebbero gli immigrati a casa loro. Yeah. allora, per cercare di comprendere come gli stati occidentali continuano a sfruttare la forza lavoro migrante necessaria a sostenere le proprie economie, ho deciso di raccontare cosa accadde dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, quando la strategia economica dominante divenne quella di concentrare l'investimento e l'espansione della produzione nei paesi più industrializzati. Il dopoguerra fu testimone della mutata natura della globalizzazione, da espressione coloniale ed imperiale all'affermazione di imperi economici basati sull'egemonia del capitale. Questa trasformazione comportò un aumento del volume delle migrazioni internazionali, perché molti lavoratori migranti furono attratti nelle economie industriali in rapida espansione, in particolare Nord America ed Europa nord-occidentale. A partire dagli anni 50 e 60 e fino alla crisi economica del 1974 si sviluppò un complesso sistema internazionale di migrazione di manodopera che trasferì milioni di lavoratori dai paesi meno industrializzati ai poli regionali, industriali e urbani. L'Europa occidentale progressivamente si trasformò da luogo di partenza in una delle principali regioni di destinazione dei movimenti internazionali di lavoratori. La ricostruzione post-bellica aveva bisogno di forza lavoro a basso costo ed incontrò il bisogno di migranti che speravano di trovare lavoro o un salario migliore. Il reclutamento di forza lavoro migrante è stato uno strumento fondamentale per rafforzare i rapporti di dominazione tra le economie capitalistiche centrali e quelle meno sviluppate della periferia, perché il lavoro degli stranieri ha contribuito alla prosperità dei paesi più ricchi d'Europa. L'immigrazione internazionale del dopoguerra nell'Europa occidentale ha acquisito slancio negli anni 50 e ha raggiunto il picco durante gli anni 60, svanendo dopo l'inizio degli anni 70, trasformando la geografia economica e sociale della regione nel suo insieme. Il reclutamento di lavoratori stranieri è diventato un elemento centrale per la prosperità dei paesi più ricchi d'Europa, poiché con l'emergere della carenza di manodopera nei paesi del nord Europa, il mercato del lavoro europeo si è internazionalizzato e il capitale ha iniziato a reclutare manodopera dalle periferie meno sviluppate dell'Europa. Con l'eccezione dell'Irlanda del Nord e della Finlandia a nord-est, questa periferia si trova prevalentemente a sud e si estende verso l'esterno in una rete sempre più ampia di lavoratori a basso costo e sfruttabili. Inizialmente, negli anni 50, l'Italia era il principale fornitore del Mediterraneo, anche se venne succeduta dalla Spagna e poi dalla Grecia e dal Portogallo, poi dalla Jugoslavia e dalla Turchia e infine il Nord Africa. Quando l'economia entrò in recessione a seguito della crisi petrolifera del 1973, quando i paesi produttori di petrolio decisero di aumentare il prezzo, questo sistema sembrò entrare in crisi, perché i contratti di lavoro non vennero rinnovati e i lavoratori immigrati furono costretti a tornare a casa. I lavoratori migranti internazionali rappresentarono quindi un comodo cuscinetto contro la carenza di manodopera nel momento di massima espansione economica e un problema da eliminare durante la recessione. Nel dopoguerra, gli stati dell'Europa occidentale riuscirono con una pianificazione organizzata a controllare i flussi e incanalare i migranti in precisi settori lavorativi. Coloro che si trasferivano all'estero erano considerati lavoratori stranieri, innanzitutto perché non avevano, cioè avevano documenti diversi, ma anche perché erano soggetti a regole e a disposizioni che valevano solo per loro e non valevano per i colleghi indigeni. La disparità di trattamento era presente già negli accordi tra i paesi, infatti c'erano disposizioni che imponevano precise trattenute al salario dei lavoratori, come per il vitto e l'alloggio, e decretavano dei limiti alle rimesse. A chi emigrava, all'interno dei progetti di reclutamento collettivo, non era inoltre consentito in molti casi abitare nelle città o in abitazioni private, ma all'interno degli alloggi collettivi pensati appositamente per gli stranieri. C'erano accordi che stabilivano che gli emigranti non avrebbero potuto cambiare mestiere e che non avrebbero potuto svolgere attività politica. Negli anni della ricostruzione post-bellica, la discriminazione insita nelle limitazioni imposte all'assunzione e alla residenza dalle politiche verso i lavoratori stranieri costrinsero gli immigrati in indeterminate occupazioni e settori economici. Attraverso il governo della popolazione straniera furono creati livelli occupazionali che si identificavano con la forza lavoro migrante. L'intersecazione del capitale con i discorsi occidentali sulla razza permise di ordinare gerarchicamente non solo il mercato del lavoro, ma l'intera società europea, generando esistenze, quelle migranti, da cui estrarre valore. Proprio con lo sviluppo dell'immigrazione di massa, gli effetti materiali della razza erano più che mai visibili, anche dopo la sconfitta del nazifascismo. Reclutare forza lavoro da sfruttare e disumanizzare per costruire la propria identità, una dinamica che ritorna nel processo costitutivo dello Stato-nazione europeo. I nazisti portarono all'estremo lo sfruttamento dei migranti senza diritti, ma la netta divisione tra status nazionale e straniero era la stessa caratteristica del nucleo giuridico dei precedenti sistemi di reclutamento di manodopera straniera da parte della Germania e degli altri paesi e di quelli che sarebbero venuti. Quello che accadde dopo la guerra rafforzò una tendenza già in atto non solo nelle migrazioni europee: ci si può muovere dal proprio paese, superandone legalmente i confini, soltanto se si parte per svolgere un lavoro. Questo diventò il punto di riferimento irrinunciabile delle politiche migratorie dei paesi europei, consentendo agli anni dell'immediato dopoguerra di preparare il terreno culturale e la cornice giuridica a quel sistema legislativo e politico che, secondo Saskia Sassen, si può definire come Fortezza Europa. And don't you come around me and with your bad, bad argument. Can you see, oh girl, you're trying to ruin my life, but there is one thing I want to tell you, girl. Just give me my talent, baby, to make lots of songs for you. So when you come amongst me, come with your intelligence. Can you see the wine? E seppur con le dovute differenze, questa strategia di assunzione di manodopera contribuì alla razzializzazione del mercato del lavoro europeo. L'ampio movimento di lavoratori stranieri mise in luce anche il rapporto tra la nazione e l'immigrazione, perché nel controllare i movimenti dentro e fuori i propri confini, l'ideologia della nazione appare pervasa dall'elemento razziale. Inoltre, i diversi modi di intendere la cittadinanza, ius sanguinis o ius soli, esclusione o assimilazione, chiariscono che proprio nel confronto con chi è considerato altro che si definiscono le nazioni. Il reclutamento organizzato in paesi come Regno Unito o Francia non può essere slegato dal loro passato coloniale. Infatti, questi modelli di controllo delle migrazioni hanno prodotto lo sfruttamento dello straniero dalla colonia alle città industriali europee. I sistemi della Svizzera o della Repubblica Federale Tedesca mostrano una chiara correlazione sia con l'idea biologica di razza, gli stranieri non devono integrarsi nella società, sia alla nascita di una tecnica di governo delle migrazioni che nel secondo dopoguerra permette ancora a razza e capitale di intrecciarsi e contribuire alla costruzione della società europea. E la forma più evoluta del sistema di assunzione temporanea di manodopera straniera in Europa fu il Gastarbeiter System, applicato nella Repubblica Federale Tedesca. Gastarbeiter vuol dire appunto lavoratore ospite. Questo modello, che entrò in vigore verso la fine degli anni 50, era fondato sul rifiuto della Germania occidentale di considerarsi paese di immigrazione, sulla distinzione giuridica tra lo status di cittadino e di straniero come criterio per determinare i diritti politici e civili e sul reclutamento totalmente disumanizzante di lavoratori singoli, giovani e sani. Il sistema venne interrotto nel 1973 a seguito della crisi energetica legata, appunto, come dicevamo, allo stop delle forniture di petrolio, ma ha continuato ad ispirare le politiche migratorie europee. Soprattutto, questa tecnica di governo delle migrazioni ha contribuito alla persistenza del discorso della razza e del razzismo nella costruzione materiale della società capitalistica europea. E adesso andiamo a vedere anche perché. Soprattutto perché la Germania, diciamo, può vantare una lunga tradizione di occupazione di lavoratori stranieri, ma a partire dal 1955, anche a causa dell'espansione dell'economia di mercato, si verificò un cambiamento nella composizione e nelle motivazioni di coloro che emigravano in questo paese. Questa nuova situazione si rifletteva nel fatto che i lavoratori stranieri venivano assunti attraverso accordi con i paesi del Mediterraneo, sulla base di ordini impartiti da datori di lavoro ed esaminati dalle autorità competenti. Il primo accordo con un paese del Mediterraneo venne firmato nel 1955 per il reclutamento e il collocamento di manodopera italiana in Germania occidentale. Successivamente la rapida crescita dell'economia italiana, la costruzione del muro di Berlino che interruppe il flusso di manodopera dalla Germania orientale e dalla Polonia e il raggiungimento di piena occupazione indussero la Repubblica Federale Tedesca a cercare lavoratori da altre parti. In questo modo si spiegano gli accordi bilaterali con Grecia, Spagna, Portogallo, Jugoslavia, Turchia e Marocco e l'installazione di agenzie di reclutamento nei paesi mediterranei da parte dell'Ufficio Federale del Lavoro. I datori di lavoro che necessitavano di manodopera straniera pagavano una tassa, appunto, alla BFA, a questa agenzia di lavoro, il quale selezionava i lavoratori, esaminando le abilità occupazionali e provvedendo alle analisi mediche e setacciando le fedine penali. Fin dall'inizio, l'occupazione di lavoratori stranieri è stata influenzata dal principio di rotazione, molto simile al concetto di lavoro stagionale di fine Ottocento, poiché il lavoro dei migranti doveva essere usato come cuscinetto contro le variazioni dei cicli economici. Questa strategia era chiamata Konjunkturpfer, cioè proprio appunto cuscinetto, diciamo, questo tedesco brillante che posseggo, però si concentrava questa teoria sullo sfruttamento di manodopera straniera come combustibile per il motore dello sviluppo economico e classificando gli operai stranieri come ospiti in soggiorno temporaneo e potendo negare ufficialmente che la Germania occidentale fosse un paese di immigrazione. Questa tecnica di governo delle immigrazioni permetteva quindi di assicurarsi una fonte di manodopera flessibile che poteva essere rimpatriata durante una recessione. In questo modo si evitava sia che gli stranieri potessero mettere radici nella Repubblica Federale Tedesca, sia che sull'economia tedesca gravassero i costi di produzione e mantenimento della manodopera. I contratti concessi erano al massimo annuali e potevano essere revocati ad arbitrio del datore di lavoro. Inoltre, per entrare e lavorare nella RFT, un migrante aveva bisogno di un permesso di soggiorno e un permesso lavorativo. Con l'aumento del numero di lavoratori, la legge sugli stranieri del 1965 stabilì che i permessi sarebbero stati concessi solo se non danneggiano l'interesse della Repubblica Federale Tedesca, frase che garantiva ai funzionari un'ampia discrezionalità nell'assegnazione dei permessi. E questa legge sugli stranieri definì anche che fossero concessi, diciamo, tutti i diritti di base, ad eccezione della libertà di associazione e di movimento e della libera scelta dell'occupazione, del luogo di lavoro e di istruzione, del diritto di voto e della protezione dall'estradizione all'estero. Meno male che c'è Goran Bregovic che ci dà un po' di ritmo a questa puntata che sta entrando un po' nel vivo, che stiamo cercando di ricostruire un po' il reclutamento di forza lavoro straniera in Europa, e vi stavo parlando appunto di questa legge che nel 65 viene attuata in Germania. Addirittura un'ultima, diciamo, curiosità, proprio il paragrafo 10 di questa legge consentiva l'espulsione dello straniero per motivi quali l'infrazione del codice della strada o la distruzione dell'insicurezza pubblica. Insomma, era un labirinto burocratico come sostegno per un apparato statale ben organizzato che reclutava uomini per l'industria pesante e donne per l'industria leggera e per i lavori di pulizia, così da riuscire a creare una classe lavoratrice inferiore composta esclusivamente da stranieri. Questa netta divisione tra tedesco e straniero trova il suo fondamento nella concezione tedesca di nazione, basata sullo jus sanguinis, eletto come principio per l'acquisizione della cittadinanza in Germania con la legge del 1913. Il riferimento alla biologia, al sangue, alla razza, criteri che lo Stato utilizzava per distinguere tra appartenenza stabile e coesistenza limitata. Quindi, insomma, per comprendere questa storia, credo che l'aspetto più importante, anche quello che spesso è difficile argomentare in presenza di domande impertinenti come quella che, con cui ho fatto iniziare questa puntata, no, li vuoi i migranti a casa tua? Beh, per cercare di spiegare questa cosa dovremmo concettualizzare che l'esperienza nazifascista, no, è un'esperienza come che deve essere visto come naturale prodotto della modernità occidentale, perché il nazifascismo non fu una deviazione dal corso naturale della storia e non può essere rimosso dalla cultura euro-occidentale. Il sistema di turnazione di lavoratori ospiti nella Repubblica Federale Tedesca fu costruito nel tentativo di nascondere questa continuità, ma il suo obiettivo intrinseco era proprio consentire la persistenza del razzismo come dispositivo di governo, garantendo alla razza un ruolo strutturale e strutturante nella costruzione del capitalismo post bellico. Aspetta, c'è perfidia, c'è perfidia. In somebody else's arms, your eyes are going perfidia, forgetful of a promise of love you shared in another's charm. With a sad lament, my dreams have faded like a broken melody. While the gods are crumbled down and laugh at what romantic fools we mortals be. And now I know my love was not for you. So I'll take it back with a sigh, perfidious one, goodbye. Suck it to me, baby. E allora, come penso un po' sappiamo, i mestizios non nascono, diciamo, si costruiscono, così come i Gastarbeiter sono stati creati nel solco di una strategia che garantisse alla Germania una manodopera utilizzabile a seconda delle proprie esigenze industriali. Infatti il reclutamento di forza lavoro migrante in Germania ha una continuità rintracciabile in tutta la storia della nazione tedesca. La concezione di comunità razzialmente omogenea si riflette nelle leggi sulla cittadinanza e nelle condizioni imposte ai lavoratori stranieri, che sono sempre stati essenziali allo sviluppo capitalistico dello Stato tedesco, tanto che alcuni studiosi scrivono di una vera e propria dipendenza dalla manodopera migrante, una dipendenza che è stata gestita abilmente bilanciando le tradizioni antistraniere e le esigenze economiche, garantendo la continuità della razza come dispositivo di governo, perché sebbene esistano differenze tra i cicli di importazione di manodopera, il razzismo istituzionale opera modificando la propria pelle, ma restando una componente fondamentale della nazione tedesca. Infatti, la sconfitta del nazionalsocialismo e del suo estremo sistema di messa al lavoro di individui considerati razzialmente inferiori non mette fine alla razzializzazione della forza lavoro in Germania. In un'apparente dimenticanza della storia, dagli anni 50 il Gastarbeiter System permise alla Repubblica Federale Tedesca di continuare a reclutare manodopera straniera a basso costo, sfruttando le difficoltà delle economie dei paesi del sud Europa. E allora, l'Ausländer Stopp, ovvero lo stop agli stranieri provenienti da paesi esclusi dalla Comunità Economica Europea del 1973, servì sia a preservare l'omogeneità razziale della comunità tedesca, sia ad impostare un nuovo processo di utilizzo della manodopera straniera, che inaugurò un periodo di consolidamento delle popolazioni straniere in Germania, un processo che portò all'insediamento permanente della manodopera migrante, che può essere considerata la prima grande, diciamo, eredità del Gastarbeiter System proprio nel cuore dell'Europa. Le politiche che cercarono di governare questa massa di milioni di lavoratori sono connesse con il processo di riunificazione della Germania, che diede nuovo impulso alla questione identitaria nazionale, contribuendo all'esplosione della violenza razzista nei confronti degli stranieri in tutto il territorio della nuova Germania. Inoltre, con la dissoluzione dell'Unione Sovietica, le richieste di asilo triplicarono rispetto al decennio precedente e quasi 500.000 di persone provenienti dall'est Europa fu accolto in Germania. Dal 1990 al 1993 si verificarono migliaia di episodi di violenza razzista sia contro i rifugiati, ma soprattutto contro gli ormai ex Gastarbeiter. L'incendio di una casa di una famiglia turca a Solingen nel 1993, in cui morirono 5 persone, di cui 3 bambine, rappresenta al meglio la risposta della società tedesca alla eredità esistenziale del Gastarbeiter System. Una risposta che influenzò il governo tedesco ad approvare l'Asyl Compromise, ovvero la modifica della Costituzione per restringere la possibilità di richiedere asilo in Germania e introdurre la possibilità di lavorare per i rifugiati. Fu un momento decisivo non solo per la Germania, ma anche per il processo di integrazione europea, che in quegli anni subiva una forte accelerazione. I problemi della Germania diventarono problemi europei. Basti pensare che dopo la riunificazione, la caduta dell'Unione Sovietica, il confine con i paesi dell'Est divenne il confine più lungo dell'Unione Europea. Come mostrano i trattati che istituirono lo spazio Schengen, l'identità europea venne costruita attraverso un meccanismo di differenziazione gerarchizzante dell'altro, lo straniero come minaccia della sicurezza nazionale. Allo stesso tempo, il modello tedesco di gestione economica dei migranti venne incorporato nelle leggi che istituivano l'Unione Europea. Ad esempio, l'Asyl Compromise divenne il nucleo degli accordi di Dublino e inaugurò il processo di neoliberalizzazione del diritto d'asilo su tutto il territorio europeo. Infatti, a partire dagli anni 2000, le direttive europee si concentrarono su una maggiore possibilità di accesso al mercato del lavoro da parte di rifugiati e richiedenti asilo, un orientamento politico che in Germania produsse un nuovo regolamento sul diritto di soggiorno. I rifugiati possono restare sul territorio tedesco se in grado di sostenersi finanziariamente. La creazione di esistenze come quelle dei rifugiati da cui estrarre valore, rivela come il lavoratore ospite non sia mai scomparso del tutto, ma sia stato convertito in qualcos'altro. Delle teorie e delle pratiche di controllo delle migrazioni chiariscono che la combinazione tra logica capitalistica con quella coloniale e razziale non si è mai esaurita. Non solo l'esperienza nazifascista, ma tutta la storia europea è permeata da violenza e dominio materiale cui ancora oggi sono sottoposti soggetti appartenenti a determinati gruppi. Questo è possibile anche perché il governo delle migrazioni nel secondo dopoguerra è stato costruito sulla base di metodi e principi che consentissero un'incessante razzializzazione non solo del mercato del lavoro, ma dell'intera società. L'eredità del Gastarbeiter System è dunque un'eredità razziale ed europea, perché così come il sistema di turnazione di lavoratori ospiti nella Repubblica Federale Tedesca aveva garantito la persistenza del discorso della razza e del razzismo in Europa dopo la sconfitta del nazifascismo, la creazione di un nuovo diritto di asilo neoliberale dimostra che la logica necropolitica del Gastarbeiter System è stata sussunta nell'Europa di Schengen. And say the chance on this mother earth, which is our rock. The time has come and what for soul? Show you really got soul. Are you ready? Hump, hump, hump, get bump. Now let's go. House is rocking, don't stop it. You gotta rock it, don't stop. Keep ticking and talking, working all around the clock. Everybody keep rocking and clocking and shocking and rocking. Go house. Everybody say rocking, don't stop it. La traslazione, diciamo, economicistica delle politiche migratorie europee dalla figura del lavoratore ospite a quella del rifugiato avviene nella crescente convergenza tra le politiche del mercato del lavoro e quelle in materia di diritto d'asilo. Infatti, le normative dell'Unione Europea a partire dagli anni 2000, come dicevamo, si concentravano sulla promozione di un maggiore accesso all'istruzione e al lavoro per i rifugiati. Questo orientamento politico si è successivamente riflesso nel regolamento tedesco sul diritto di soggiorno, che consente ai rifugiati tollerati di rimanere in Germania se possono sostenersi appunto economicamente o se hanno una formazione professionale. La reazione dello Stato tedesco riflette determinate razionalità, interessi economici e politici, ma come già sostenuto, il collegamento tra accesso al lavoro e diritto di asilo era avvenuto già nel 92 con la modifica della Costituzione tedesca. La neoliberalizzazione del mercato del lavoro tedesco ha giocato un ruolo importante nella definizione di queste politiche e hanno svolto un ruolo decisivo nel modellare l'integrazione dei rifugiati nel mercato del lavoro. Inoltre esistono importanti connessioni tra le politiche dei rifugiati e quelle relative ai lavoratori ospite, anche perché la dicotomia tra rifugiati e migranti per lavoro è per molti aspetti artificiale. Il reclutamento di lavoratori ospiti dopo la Seconda Guerra Mondiale, che è spesso considerato il punto di riferimento della migrazione di manodopera regolamentata, contiene elementi di fuga dalle dittature nell'Europa meridionale senza essere inquadrati come movimenti di rifugiati, e le politiche di rifugiati come parte integrante e dinamica delle trasformazioni dei mercati del lavoro post-fordisti, presentati come un'opportunità per un'integrazione più rapida e migliore, contribuiscono a un'ulteriore flessibilizzazione e segmentazione del mercato del lavoro. Infatti, una delle novità che ci ha portato il governo europeo della cosiddetta crisi dei rifugiati, no? Promossa da tutti gli stati dell'Unione Europea subito dopo l'estate del 2015, è non solo la scomparsa del cosiddetto migrante economico dalle politiche migratorie europee, ma la fine del tradizionale regime dei diritti umani riguardanti i rifugiati e richiedenti asilo e la sua sostituzione con una legislazione orientata alla loro produzione come forza lavoro differenziale e razzializzata per i mercati del lavoro locali. Si tratta di una scelta politica ben visibile nella celebrata apertura di Angela Merkel all'ingresso nel 2015 in Germania di 1 milione tra profughi e richiedenti asilo, ma si pensi anche per esempio alle tendopoli umanitarie di migranti disposte vicino ai luoghi di lavoro nelle campagne del Sud Italia. Out for licks from my big fat stick. The stick is real thick, call me Easy Mo Vic. But this pick can't be flicked like a lighter to a joint. I'm easy, not wide, to get the point. In other words, the mo ain't a joke. And something like the trumpet, I'm jumping on the difficult folk. Miles in the style of the hip-hop bugle, not your ordinary, or even Chattanooga, the train that goes choo-choo, like Norton sang Lulu. The horn cast spells like some witch doctor's voodoo. The notes from his trumpet makes ladies get freaky like sex. Reach your climax, what's next? Two hunky dories that tickled your fancy, not in your panties, but up in your mind, that's where we stand, see? That's where you seek for the need of a chance to be part of the Easy Mo B and Miles Davis fantasy. Quindi arriviamo un po' alle conclusioni di questo discorso abbastanza problematico. Diciamo che attraverso quella che è stata descritta come crisi dei rifugiati, ovvero la narrazione sull'esistenza di rifugiati e di migranti che ha cominciato a spostarsi verso l'Europa per richiedere asilo, è possibile osservare la vera essenza del progetto politico dell'Unione Europea per migranti e cittadini postcoloniali. La creazione di un nuovo diritto d'asilo neoliberale è solo una delle strategie introdotte dal governo europeo delle migrazioni, dalla creazione di nuove strutture detentive per migranti, come i centri di identificazione ed espulsione o i centri per rimpatri, alle missioni nel Mediterraneo Mediterraneo per contrastare l'immigrazione illegale, o ancora l'interruzione temporanea di Schengen proprio durante l'estate del 2015. Queste tecniche quindi smascherano la narrazione umanitaria di una gestione della migrazione europea. Ancor di più, ci permettono di scrivere il concetto di integrazione degli stranieri e il suo legame con il neoliberalismo dentro una nuova economia politica morale di gestione delle migrazioni che affonda le sue radici nella storia coloniale europea. Il Wir schaffen das, pronunciato da Angela Merkel, noi possiamo farcela, che la cancelliera utilizzò per esprimere la volontà di ricollocare i rifugiati siriani in maniera ordinata e legalizzata in Europa, con la condizione che la controparte turca aiutasse a sconfiggere l'immigrazione illegale, nasconde un perverso intreccio tra biopolitica e necropolitica. Nella messa a valore delle esistenze dei richiedenti asilo, il lavoro ospite sembra che non sia mai scomparso, ma si sia trasformato in qualcos'altro. Il progetto che aveva operato attraverso il Gastarbeiter System si presenta ai giorni nostri nella nuova veste neoliberale in cui razza, capitalismo e sovranità continuano a produrre territori e popolazioni, costituendo il cuore pulsante dell'Unione Europea. Give them love on your best man. Give them love, man. Man played the bass. He put love in the music, man. Put more love in anything I do. Let us all sing together, my brothers. Love. E allora questa prima parte del Ponte Radio da parte di Radio Neanderthal di oggi 21 novembre è terminata, questa parte che diciamo dai presenti in regia mi dicono che è stata un poco diciamo pesante, complessa, problematica, ma comunque parlare di certi argomenti e soprattutto andare al cuore delle questioni che permettono diciamo di smontare tutte queste false narrazioni su i migranti, sull'immigrazione, su quelli che identifichiamo come persone non uguali a noi, deve essere affrontata in una, diciamo, secondo me in una certa maniera, perché poi nelle chiacchiere da bar o dalle fermate di autobus o dal meccanico o da fare la spesa è facile essere incalzati ormai da una questione, quella del rifiuto dei migranti, quella del respingimento di queste persone che si sta sempre di più cristallizzando nella diciamo nostra società. E adesso diciamo continua il Ponte Radio, cerchiamo un po' di alleggerirvi perché ci sarà il nostro Metallo che ha preparato una puntata su Iorundi, addirittura sempre Presi a Calci, che è una trasmissione che sta animando Radio Neanderthal ogni settimana e a noi fa molto piacere diciamo continuare a ospitare e proporvela sempre al Ponte Radio, quindi restate collegati, che adesso ci divertiamo un po'. Saluto caloroso a Marghe che ci ascolta. Marghe, torna presto, ci manchi tantissimo, tantissimo. Mi è piaciuta l'autonomia differenziata, eh? Dai, torna, torna, basta lavorare, basta. un ritornello scritto con il cuore, il rosso blu. Forza ragazzi, forza ragazzi, forza ragazzi, forza ragazzi, forza ragazzi, forza ragazzi. Forza ragazzi che si vincerà, la nostra squadra è forte e ce la fa. Ogni partita è un'avventura, una battaglia che mai finirà. Forza Cosenza che si vincerà. Ormai nessuno più ci fermerà. Un canto, un coro si alzerà. Una canzone per il Cosenza io canterò, un ritornello scritto con il cuore, il rosso blu. Forza ragazzi, cantiamo insieme perché si sa. Il dolce sogno poi si avvererà. Lontano sento un eco che risponde. Il magico Cosenza vincerà. Ed eccoci qua in questa puntata del Ponte Radio del 21 novembre del 2025, diciamo pure l'anno così non ci si può confondere. Oggi qua presi a calci volevamo fare in realtà una puntata sugli eunuchi e il calcio, ma poi l'abbiamo scritta, l'abbiamo data al nostro studio legale, insomma, che gestisce tutte le questioni, le pratiche legali, tutte le questioni legate anche ai diritti d'autore, tutte queste cose che interessano tutte le radio. Esatto, le presenti. Esatto, sono sempre presenti e ci danno sempre una mano a finire e iniziare le puntate e anche ad essere presenti in studio per fare le puntate poi materialmente, diciamo. Però diciamo abbiamo dato questa puntata già scritta sugli eunuchi e il calcio e il nostro studio legale appena ha letto i primi nomi ha detto no, evitate di farlo perché ci sarebbero stati dei problemi. Allora per assonanza linguistica abbiamo deciso di fare gli oriundi e il calcio. Ovviamente partiamo subito con una cosa colta che mi ha detto appunto uno degli avvocati, perché ovviamente noi il latino non lo sappiamo proprio. Cioè sappiamo c'è uno che si chiama il latino, ma è un altro fatto che non c'entra, Giovannulati, vabbè, è un fatto che non c'entra. Però oriundo deriva dal latino oriundus, che è il participio futuro del verbo orior, che significa nascere, terra d'origine o anche trarre origine. Iniziamo subito con questa citazione colta per farvi dimenticare quello che abbiamo detto all'inizio. Ovviamente non è che ci mettiamo a parlare di tutti gli oriundi che hanno attraversato il calcio italiano e il calcio internazionale, perché sarebbe una cosa lunghissima. Ci concentreremo soprattutto sull'epoca che ci piace di più, che è quella degli anni 20 e degli anni 30. Non ci piace di più per ragioni politiche, ma per ragioni calcistiche, diciamo subito questa cosa, per mettere le mani avanti. No, i soliti nostalgici. Esatto, non abbiamo nostalgia. Una volta, siccome se potevi dormire con la porta aperta una volta, capito? Per questo. Sempre che ce l'aveva la porta. Esatto, ammesso che tu avessi la porta. Però là non avevi il problema di dormire con la porta aperta, visto che non avevi la porta. Comunque... Gli oriundi sono quei calciatori che, pur avendo una nazionalità diversa da quella italiana, hanno potuto giocare in nazionale in virtù della loro discendenza. E visto che i nostri migranti sono spesso partiti per il Sud America, di giocatori forti ne sono spuntati parecchi. Ti immagini che c'era una grande immigrazione in Uzbekistan, che diciamo non ha una grande nazionale, non ha mai avuto una grande nazionale. Meno male che sono andati quasi tutti in Argentina e in Brasile, quindi ci siamo trovati in Uruguay, quindi ci siamo trovati abbastanza bene. E infatti la nazione che ha generato più oriundi per la nazionale italiana è proprio l'Argentina. E negli ultimi anni, insomma, ne abbiamo avuto parecchi: Camoranesi, Jorginho, che in realtà è di origine brasiliana, Thiago Motta, che ha avuto alterne fortune allenando una delle nostre squadre che ci seguono sempre, pure Spalletti ci segue sempre dalla sua esperienza a Napoli qua su Radio Neanderthal, quindi lo salutiamo e gli auguriamo ogni bene. Quindi Thiago Motta, dicevamo, Emerson, Palmieri, Eder e tanti altri. Poi il governo attuale in realtà ha deciso di cambiare la legge che regolamentava tutta questa questione, credo in nome della protezione della razza, perché loro ci hanno sta fissa questo fatto qua, credo, così, ad orecchio. E quindi d'ora in poi sarà necessario avere o i genitori o i nonni italiani, mentre prima bastava un bisnonno, ad esempio, insomma un altro parente. Un bisnonno oppure un impiegato all'anagrafe compiacente, bastavano questi due, limiti, per queste due condizioni per diventare italiano. Per diventare italiano, che era più facile trovare l'impiegato all'anagrafe, diciamo che diceva boh. La ricerca del parente, magari un trisavolo, valla a trovare capito? Un trisavolo veneto, i registri, lì invece al comune di Fagnano Castello. Esatto, non fare nomi, che sempre il nostro studio legale ci ha diffidato dal fare dei nomi. Comunque dicevamo che appunto adesso la legge è cambiata e quindi ci sono delle restrizioni, delle altre restrizioni, diciamo, legate a riuscire ad avere la cittadinanza per giocare a pallone. Insomma, chi ricorda la campagna di qualche anno fa, Gioco Anch'io, da cui poi sono nate tutte le varie squadre a Napoli, ad esempio la Fronapoli, che poi si è fuso col Quartograd, che ancora insomma calcano i campi di calcio delle serie minori. Il 50° oriundo della nostra nazionale è l'attuale centravanti Matteo Retegui, che poteva pure stare, diciamo, dove stava il Tigre, credo. Sicuramente una squadra con un nome più simpatico. Esatto, della nazionale italiana. Diciamo, lui è stato naturalizzato argentino, naturalizzato italiano grazie ai nonni prima della nuova legge. Prima di lui però ci furono quelli dell'epoca calcistica degli anni 20 e 30 che dicevamo prima. Anche se il primo giocatore considerato oriundo fu tale Ermanno Ebi, che era nato in realtà a Milano ma che aveva sempre vissuto in Svizzera ed esordì in un amichevole con la Francia il 18 gennaio del 1920, partita che finì 9-4 per la nazionale italiana, in cui lui segnò addirittura una tripletta. Immaginate poi quanti gol, altri gol avrà fatto, no, con questo esordio. Quanti ne avrà fatti secondo voi, così ad occhio? Due? No, ne ha fatti quelle tre. No, se aveva già fatto la tripletta non poteva. No, ha fatto solo quei tre, poi basta, è sparito. Solo quei tre gol ha fatto. Poi qua ovviamente noi abbiamo pigliato 4-5 esempi di oriundi, non troppi, appunto, per non, visto che già sapevamo che la puntata prima che ha fatto era Miss ci avrebbe appallato tantissimo, abbiamo deciso di pigliare solo alcuni esempi. Uno dei più famosi oriundi che arrivò appunto in quel periodo in Italia fu una bandiera del Napoli, sia negli anni 20 che negli anni 30, che si chiamava Attila Sallustro, che era nato ad Asunción in Paraguay e giocò 258 partite segnando ben 106 gol. Sallustro arrivò a Napoli nel 1926, anno di fondazione della squadra, che per la prima volta in quell'anno partecipò ad un campionato nazionale. In effetti dovremmo fare tutta una puntata sulla nascita del Napoli, saccheggiando dei libri degli altri, chiaramente. Questo interessa qua, annuiscono, ma poi alla fine non vanno cazzo, ve lo dico io. Ma bisogna poi mettersi a fare altre cose. Comunque, Sallustro, come Maradona, portò il Napoli con i suoi gol e le sue giocate a contendersi il titolo nazionale. Nonostante la prima stagione con il Bomber, nonostante i suoi gol, finì con un solo punto in 18 gare, insomma un successone come primo anno. Uno già vede, vabbè, chiudiamo qua. Invece no, per fortuna hanno continuato. Fu il primo idolo dei tifosi napoletani e una delle prime star di fatto del calcio italiano, anche perché ovviamente guadagnava un sacco di soldi rispetto a tutta un'altra serie di persone e pare si permettesse macchine, ovviamente gioco, donne, alcol, eccetera eccetera, le solite cose per la fine. Che poi uno dice George Best, ma chi si sballavano già negli anni 20 e 30. Giocò pochissimo in nazionale in quell'epoca perché l'Italia era piena di giocatori fortissimi. Infatti vinse due mondiali, su cui stendiamo un velo pietoso, su cui sono arrivati i mondiali come li abbiamo vinti, e un'Olimpiade. Guarda caso, un mondiale l'abbiamo vinto in casa e l'altro mondiale con i nazisti al governo in Germania, e quindi probabilmente ci furono anche parecchi aiutini arbitrali, sia nel 34 che nel 36. E poi il secondo titolo venne vinto in Francia nel 38 in mezzo ai fischi dei francesi, che insomma non avevano pigliato molto bene che in Italia ci fosse un regime fascista. E adesso ci andiamo a sentire un pezzo di Edith Piaf, giusto così per appallarci di nuovo e continuare sulla falsa riga di questa giornata uggiosa qua a Napoli. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, c'est payé. Allumer le feu, mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien, ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie. Eccoci di nuovo in diretta, appunto stiamo parlando degli oriundi nella nazionale italiana. Un altro dei più famosi in quegli anni era Julio Libonatti da Rosario, soprannominato El Portillo, cioè il puledro. Vi potete immaginare il motivo per cui era soprannominato così, cioè non vi fate idee, strane, semplicemente perché correva velocissimo in campo, insomma era uno dei giocatori più rapidi del campionato, dei più rapidi sudamericani, che si trasferì in Italia e diventò un altro degli idoli dei tifosi. Ricordare un altro potro molto famoso nella storia argentina, Astor Piazzolla, che era anche lui il potro. Bene. Vuoi dirci qualcosa su Astor Piazzolla? No, va bene. Ti trovo poco collaborativo oggi. Comunque proseguiamo con questa rapida carrellata sugli oriundi della nazionale italiana. Appunto, Libonatti si trasferì in Italia e diventò uno degli idoli dei tifosi, prima del Bologna e poi del Torino. Da notare che in quello stesso Torino giocava Baloncieri, di cui abbiamo parlato in un fantastico podcast di Radio Neanderthal che trovate sul nostro sito. Pigliate carta e penna anche se state guidando, è radioneanderthal.noblogs.org. Ve lo ripeto, radioneanderthal.noblogs.org, se avete scritto, insomma, speriamo di sì. Poi mo rimettetevi alla guida e ringranate la seconda. E l'altro giocatore che formava il tridente di quella squadra incredibile che era il Torino era Rossetti, e appunto veniva chiamato con grande fantasia, come succede in questi casi, il trio delle meraviglie, no? Di solito col Napoli tre tenori, sai, questa è sempre la fantasia di alcuni giornalisti sportivi. Libonatti gioca in Italia 241 partite e segna ben 157 gol. Su di lui ci sono un sacco di storie abbastanza incredibili, come si narra che quando decise di tornare in Argentina dovette comprarsi il biglietto con gli ultimi soldi che gli erano rimasti, visto che pare che fosse un gran viver. Uno dei più importanti torinologi di tutti i tempi, tale Giglio Panza, per chi non lo conoscesse, insomma andatevi a vedere le cose su internet, ma in questo caso non vi do l'indirizzo, quindi non pigliate carta e penna, non vi preoccupate, raccontava così il centravanti. Era l'unico che sul piano della classe potesse sostenere il confronto con Baloncieri, piccolo di statura ma solido nel tronco e quindi forte nei contrasti, rapido nello smistamento del pallone, altruista nel gioco, come lo era nella vita. Questo idolo argentino ha segnato caterve di gol colpendo il pallone di punta nella metà centrale della circonferenza, come un giocatore di biliardo, un numero che non avrei più visto fare a nessuno e in nessuna parte del mondo. Questa è la presentazione per dirvi chi era Libonatti. Col Torino vinse due scudetti di fila, ma qua arriva uno dei primi scandali del calcio italiano, perché uno di questi scudetti del Torino, quello del 26-27, fu revocato per quello che venne chiamato scandalo alle Mandi. E la vicenda ruota tutta attorno a una combine orchestrata da tale Guido Nani, revisore dei conti del Torino, nonché amico personale del presidente Granata, che all'epoca era Enrico Marone Cinzano, di cui tutti noi abbiamo bevuto i prodotti in più di un'occasione, e da Francesco Gaudioso, uno studente siciliano del Politecnico del capoluogo piemontese, che era in buoni rapporti con diversi giocatori della Juventus, fra cui in particolare il promettente terzino Luigi Alemandi, da cui potete immaginare prende nome lo scandalo. E qua c'è la prima cosa assurda, che il primo scandalo del calcio italiano è il Torino che cerca di corrompere i giocatori della Juventus e non viceversa. Già questo, e salutiamo tutti i tifosi della Juventus, anche quelli presenti in redazione, senza fare nomi. Comunque lo scandalo scoppiò perché anche qua è una delle cose classiche, no? Questo Guido Nani promise 35.000 lire, e siamo nel 26-27, quindi insomma stiamo parlando di una cifra enorme, a Gaudioso per appunto corrompere alcuni dei giocatori della Juventus. Diede le prime 25.000 e poi, dopo la partita, la vittoria dello scudetto da parte del Torino, si rifiutò di pagare le altre 10, probabilmente per tircheria o perché insomma pensò vabbè ormai la cosa è andata così, cioè mo figurati se questo arma un casino. E invece se questo arma un casino e danno il nome del mio difensore all'operazione all'operazione, porca miseria. E invece questo Gaudioso, che non sapeva tenere la bocca chiusa, e si sa che chi tiene la bocca chiusa campa cent'anni, andò a parlare con un giornalista, tale Ferminelli, che era un giornalista sportivo, e gli raccontò tutto, sperando in questa maniera di indurre il dirigente a pagare, perché contava che il giornalista facesse qualche pressione direttamente con la società del Torino. Ma c'era un piccolo problema, che Ferminelli e Guido Nani si odiavano per ragioni a noi più o meno sconosciute, però non vogliamo, sempre per questioni legali, non vogliamo mettere in piazza i problemi degli altri, anche se sono morti e sepolti, e ai loro avvocati servirebbe una vanga per andare a ripescarli. Comunque questo giornalista odiava il dirigente del Torino, e quindi per questi motivi personali sputtanò tutta la vicenda sui giornali su cui scriveva, e scoppiò il primo grande scandalo del calcio italiano, che tra l'altro vide praticamente l'unico a pagare realmente fu questo Alemandi, perché fu escluso per sempre dal calcio e radiato a vita. E adesso ci andiamo a sentire un pezzo di Olavi Virta, che capirete già che pezzo sia, che tra l'altro è norvegese, sempre in onore della nazionale di Rino Gattuso, questo l'abbiamo messo. Nein Lieden, oh, ja laulan, oh, nyt käyn mä onnea päin, sen sinessä taivaan mä näin, yhä ylemmäks lentäen liitäen, kiitäen auringon paisteessa näin, koko maailma pieninä pisteenä takana päin. Laulu suloisin ihanin kaunein minulle soi. Näin lennän, ho-ho, ja laulan, ho-ho-ho. Nyt käyn mä onnea päin, sen sinessä taivaan mä näin. Unen sain nähdä niin hauskan ja kummallisen. Siniset kädet ja kasvot sain yllättäen. Nopea tuulonen ilmestyi uneeni jostain. Sinistä taivasta päin mua siivillä nostain. Näin liiden, ho-ho, ja laulan, ho-ho-ho. Nyt käyn mä onnea päin, sen sinessä taivaan mä näin. Yhä ylemmäks lentäen liitäen, kiitäen loisteessa silmiä sun. Sinun katseesi pohjalla on koko maailmain mun. Ääne suloisin ihanin kaunein mulle main soi. Näin lennän, ho-ho. Ja laulan, oh, oh, oh, oh. sen sinessä taivaan mä näin. Taivaan mä näin, nyt käyn mä onnea päin, sen sinessä silmies näin, nyt käyn mä onnea päin. E dopo questo fantastico pezzo di Olavi Virta, che era una versione norvegese di, nel blu dipinto di blu, come potete immaginare, che è un titolo assurdo, che è Taivaan Sinessa, se la volete trovare così, e dedicarla ad Halland e ai suoi compagni. Ritorniamo a Bomba. Un altro oriundo famosissimo è Luisito Monti, colonna dell'Argentina degli anni 20, probabilmente una delle squadre più forti di sempre, ma capace di perdere qualsiasi partita anche a carte con l'Uruguay più forte di sempre, che era appunto quella degli anni 20 e 30, su cui ne abbiamo parlato. Potete andare sul sito di Radio Neanderthal e praticamente ogni tre puntate parliamo dell'Uruguay degli anni 30 e dell'Argentina degli anni 30, quindi degli anni 20 e 30. Quindi sceglietene una a caso dove c'è scritto Argentina o Uruguay e ve la sentite. Non vi ridico il blog, perché insomma lo siete già segnato la prima volta. Monti era un difensore che lasciava a terra un giocatore avversario a partita, cosa molto comoda visto che non c'erano sostituzioni all'epoca, quindi giocavi sempre un uomo in più. Nel 30 perse la finale da capitano nel primo mondiale della storia contro l'Uruguay, e nel 34 però vinse il mondiale da naturalizzato italiano con appunto la nazionale italiana. Si picchiò più volte, a parte tutta un'altra serie di cose, le andate a cercare sui podcast direttamente di Radio Neanderthal, ma non vi sto a raccontare di nuovo tutta la storia. Uno degli elementi che più interessanti è che quando arrivò a giocare in Italia con la Juventus, si picchiò parecchie volte con Angelo Schiavio, che era il centravanti del Bologna di quegli anni, proprio perché lui era, diciamo, chiamato dai francesi che lo videro giocare per la prima volta nelle Olimpiadi del 24, lo chiamarono il macellaio, le carnicerò, e quindi diciamo che, per farvi capire, che non andava tanto per il sottile tra pallone, caviglia, ginocchio, insomma quello che era pigliava, insomma, monica, stai là sotto... Tracchi, elogene. Esatto, soffritto, cioè, era uno molto attento a queste cose. Pezzi, ha aperto una macelleria e la pigna secca poi, la sua famiglia. Comunque, in una partita colpì così forte Schiavio che quello svenne e fu portato a braccia fuori dal campo per riprendersi ore dopo. Nella partita successiva... Guarda caso, Schiavio se l'era leggermente legata al dito, e al primo calcione di Monti il bolognese gli partì e scoppiò una rissa che fu difficile da sedare. Insomma, pare che ci vogliono più di 20 minuti tra i due che si picchiavano, insomma, poi anche Schiavio non è che era proprio piccolo, Monti era un bestione, ma anche Schiavio non le mandava a dire. Però Monti, e questo pare sia vero, insomma, tutti i suoi allenatori lo dicono, aveva un piede che gli faceva mettere la palla dove voleva. Tutti i suoi allenatori dicevano che riusciva a fare passaggi di 50 metri che si poggiavano sul piede del compagno di squadra. Insomma, un giocatore di grandissima classe, apprezzatissimo per tutte queste doti dai compagni, ovviamente meno dagli avversari. In Italia, appunto, andò a giocare per la Juventus per $5,000 al mese, cioè una cifra spaziale, pure per oggi, ma per l'epoca erano veramente una cosa incredibile. In più ebbe una villa vicino a Torino e anche una macchina, insomma un bel colpo per uno che era nato povero vicino a Rosario. E adesso ci andiamo a sentire un pezzo di Frankie Energy che è Chiedi. Per amore della musica anch'io, di tipi come te ne ho conosciuti un fottio, di gente scorretta, di gente che sfrutta, che prima ti usa cose fatte ti butta, di gente che fa solo ciò che gli va, approfittando di chi poi ci rimetterà, senza chiedere mai il valore che dai alle cose che fai, basta che gliele dai e poi vai. Il gioco sta nel dire che ci sarà poco da spartire, che non ti potrai mica arricchire, che quelle poche lire mai potranno ripagarti, che non ci sono parole per riuscire a ringraziarti. Tu non preoccuparti, ora et labora, che i conti li faremo poi quando sarà l'ora. Intanto ti incantano e non ti accontentano, e più tu gliene dai più bastardi diventano. Chiedi, chiedi e non dai mai, mi domandi di dare quello che non sai, ma rimandi a domani i dividendi miei, e rimando, ti mando dove rimarrai. Tu chiedi, chiedi e non dai mai, mi domandi di dare quello che non sai, ma rimandi a domani i dividendi miei, e rimando, ti mando dove rimarrai. Come ho fatto a fidarmi? Facile, sembri credibile, ma usi i tuoi occhi come specchi per le allodole, tendi le trappole attorno alle briciole e lasci il tuo complice a uccidere. Basta che tu non perda liquido, questo perché non rispondi in solido, a costo di far la figura dell'arido, evapori acqueo, nuvole d'alito, tipo t'ho creduto senza far domande, non mi dai risposte troppo blande, pago l'errore più grande, darti perle al posto di ghiande, sai, suino sei, suino resterai, con gli anni che hai, tu non cambierai mai, potrei farti un futuro giusto come Cotechino, se al posto del piombino ci metti un orecchino. Chiedi, chiedi e non dai mai, mi domandi di dare quello che non sai, ma rimandi a domani i dividendi miei, e rimando, ti mando dove rimarrai. Tu chiedi, chiedi e non dai mai, mi domandi di dare quello che non sai, ma rimandi a domani i dividendi miei, e rimando, ti mando dove rimarrai. Quando tu dici amici che intendi, agire felici in comunione di intenti, essere presenti in tutti i momenti nei quali da solo proprio non te la senti, farsi a metà per valer più del doppio, avere un fedele senza esserne l'oppio, mettersi a nudo mostrandosi stroppio, essere lo scudo o essere lo scoppio, sei solo chiacchiere diversivi, avrai i tuoi motivi, d'altronde da anni civili, a te i modi civili non bastano, mentre a me quelli penali disgustano. Ma se prima mi imbischi e poi te li infischi, l'utile intaschi e scarichi i rischi, fai il pesce sul fondo del barile che raschi, mo prenditi fischi per tutti i tuoi fiaschi. Chiedi, chiedi e non dai mai, mi domandi di dare quello che non sai, ma rimandi a domani i dividendi miei, e rimando, ti mando dove rimarrai. Tu chiedi, chiedi e non dai mai, mi domandi di dare quello che non sai, ma rimandi a domani i dividendi miei, e rimando, ti mando dove rimarrai. Chiedi, chiedi e non dai mai, mi domandi di dare quello che non sai, ma rimandi a domani i dividendi miei, e rimando, ti mando dove rimarrai. Tu chiedi, chiedi e non dai mai, mi domandi di dare quello che non sai, ma rimandi a domani i dividendi miei, e rimando, ti mando dove rimarrai. Ed eccoci di nuovo qua in questa giornata uggiosa napoletana da Radio Neanderthal per il Ponte Radio del 21 novembre. E ritorniamo a parlare di un altro oriundo che arriva sempre dall'Argentina, Raimundo Orsi, detto Mumo, che arrivò in Italia e divenne anche lui campione del mondo nel 1934. A differenza di Monti, che era fisicamente molto dotato, lui era invece poco dotato, basso, stretto di vita e di spalle e magrissimo. Pare che il dirigente della Juve che lo andò a prendere al piroscafo lo volesse rimandare indietro immediatamente appena lo vide scendere dalla nave. Insomma, diciamo che in qualche misura assomigliava ad Angel Di Maria, però era uno di quei giocatori che sapeva mettere un cross sulla testa del centravanti da dove voleva, anche da 30-40 metri, insomma un po' come Monti. Anche perché ricordiamo che poi il calcio argentino è vero che ha creato tutta quella serie di cose incredibili, gioco di strada come appunto la ruleta, i dribbling, si basa tanto su quello, però era anche un calcio che è nato grazie agli insegnamenti degli inglesi, che insomma, dove il lancio lungo era almeno all'epoca una delle cose delle modalità di gioco più adottate dai giocatori. Loro ovviamente l'hanno migliorato di brutto. E gli argentini, e l'abbiamo detto più in una volta nelle nostre fantastiche puntate di Radio Neanderthal che trovate sul nostro blog radioneanderthal.noblogs.org, giocavano un calcio Albi Celestial, giocando col nome della loro maglietta, appunto Albi Celeste, e il gioco del calcio lo chiamavano la nuestra, cioè il nostro gioco, cioè il nostro, però sì, è vero, vagamente gli inglesi l'hanno inventato, però insomma poi noi l'abbiamo cambiato, modificato ed è diventato un'altra cosa, appunto la nuestra. È vero che anche tanti italiani hanno inventato dei colpi abbastanza incredibili. Biavati si dice che abbia inventato appunto la Rabona, e appunto insomma ci sono stati tanti giocatori incredibili oltre agli argentini, però insomma gli argentini in quegli anni il fatto di chiamare il calcio la nuestra se lo pigliano proprio come un punto d'onore, appunto inventando poi nomi incredibili per tutte queste giocate. Appunto la ruleta, abbiamo detto in varie puntate, la chiamavano la Marianella, che appunto era in quella lingua meravigliosa che è il lunfardo di Buenos Aires. E Orsi, diciamo che è espressione proprio di questa mentalità, di questo tipo di gioco degli argentini, e quindi appunto giocava in maniera incredibile sia di destro che di sinistro, dribblava come che, infatti veniva chiamato il poeta della zurda, che nel gergo calcistico argentino stava per il poeta del piede, e sapeva zurdear, che è un verbo intraducibile, però insomma potete vagamente intuire cosa significa, insomma saper far tutto con il pallone, tutto quanto quello che voleva. E questa è una cosa che fa impazzire gli argentini, no? Ma penso tutti gli amanti del calcio, la capacità di fare queste giocate. A me è una cosa che fa impazzire gli argentini, la capacità di inventarsi un termine su ogni cosa che poi diventa lingua corrente, no? Tipo zurdear, che è abbastanza incredibile. Orsi segnò parecchi gol sia nella Juventus che in nazionale, oltre appunto a vincere 5 scudetti con la Juve in quello che venne chiamato il quinquennio d'oro tra il 30 e il 35, se non sbaglio. E confermo. Meno male. Però diciamo che è stato appunto il giocatore oriundo ad aver disputato più partite in nazionale prima di essere battuto da Mauro German Camoranesi circa 70 anni dopo. Aveva solo un problemino lui, che gli faceva spendere praticamente tutto il suo stipendio, che scommetteva su qualsiasi cosa, tipo Frankie quattro dita di The Snatch. Infatti tu perdeva soldi come che. E poi aveva in realtà anche due hobby più innocui. Uno è che non si radeva prima della partita, ma solo dopo. E poi era un appassionato di violino, e quindi pare che facesse queste feste in cui lui si metteva a suonare il violino, ma pare che non lo suonasse così bene, però visto che offriva da bere a tutti quanti, nessuno aveva il coraggio di dirgli: senti, piglia suo violino, basta, e mettiamo un disco. E adesso ci andiamo a sentire Minor Swing di Django Reinhardt con il violino di Grappa e Libero. Thank you. e chiudiamo questa carrellata rapida sugli oriundi con forse uno di quelli meno conosciuti, che si chiamava Enrique Guaita. Anche lui era argentino e giocava nel Racing di Avellaneda e poi approdò sempre negli stessi anni alla Roma. Ebbe la stessa fortuna degli altri suoi connazionali con la nazionale italiana e segnò addirittura il gol decisivo nella semifinale del 34 e arrivò a segnare in un campionato 28 gol in 29 partite. I tifosi della Roma lo chiamavano il Corsaro Nero perché dopo una tripletta a Livorno in cui la Roma indossava la maglia nera, lui insomma fu portato in trionfo dai tifosi e quindi da lì il Corsaro Nero, sempre con la fantasia che contraddistingue alcuni dei soprannomi di giocatori di calcio. Qui possiamo scrivere un pezzettino della storia degli oriundi italiani, che forse è una delle parti più interessanti, no? Perché in quegli anni sta per iniziare il disastroso periodo coloniale italiano, insomma, fatto di strage e gas nervino sui civili. E molti giocatori oriundi, ovviamente hanno essendo chiaramente tutti giovani in età militare, da militare, hanno il terrore di essere mandati sul fronte, tra cui proprio Guaita, Scopelli e Stagnaro, che giocavano con la Roma, e decisero di scappare in Argentina senza dire niente a nessuno. Cioè praticamente il giorno prima si presentano all'allenamento, si narra che uno dei dirigenti della Roma, loro abbiano chiesto a uno di questi dirigenti: oh, ma c'è pericolo che finiamo pure noi a fare i militari, insomma andare a sparare o essere sparati in giro per il mondo? Il dirigente disse: no, voi calciatori figurati, non succederà mai, cosa che in realtà non era vero, perché poi molti giocatori... Era la risposta che si aspettavano: se ci dicono no ce ne scappiamo subito. Se dicono no andiamo solo fuori. Questa è stata la risposta di White ai lunfardo sempre. Praticamente quindi loro due si sentono rassicurati dalle parole del dirigente e scappano immediatamente, proprio senza farsi mai più vedere, cioè tra l'altro lasciando stipendi, cioè, lasciarono le case arredate, insomma ammesso che si potessero portare chissà che cosa. Ovviamente nel periodo fascista vengono accusati di un sacco di reati per impedirne insomma un eventuale ritorno, tra cui essere insomma ovviamente dei facinorosi, dei sovversivi, dei traditori della patria, degli anarchici, eccetera eccetera. Ma Guaita non si sa bene per quale motivo, praticamente dopo che scappò dall'Italia, anche perché probabilmente ritornò in Argentina, e si sa che in Argentina insomma i circoli, come in altre parti del mondo, insomma i circoli dell'Italia fascista erano anche abbastanza forti, anche se per esempio alcuni come Severino Di Giovanni non gli stava molto bene questa cosa. Poi Severino Di Giovanni faremo una puntata, anche se non è un calciatore, però diciamo faceva saltare gli schemi comunque. Guaita comunque appunto lasciò il calcio proprio perché probabilmente non trovava ingaggi e fece una cosa terribile, cioè divenne il direttore del carcere di Bahia Blanca, dove è nato Lautaro, non nel carcere diciamo, dove Lautaro è nato. E pare che questo posto lo riuscì a trovare per i meriti sportivi acquisiti negli anni giocando in Argentina. L'unico problema è che, e quindi in sintomo del fatto che non stava benissimo, beveva come una fogna. E quindi praticamente venne licenziato e morì poverissimo, ospite in casa di amici che se lo accollano a turno. E meno male che lui li ha trovati, perché giocatori tipo Garrincha invece sono morti da soli in povertà. Adesso ci andiamo a sentire un pezzo di Neffa, perché siamo molto commerciali oggi, che si chiama Molto Calmo. Devi stare molto calmo. te le più belle storie che tu puoi sognare. Quando non ti lasciano, quando non perdonano, quando gridi no, quando non è certo lui, ma la tua vergogna che ti fa più paura. Ci sono i segni che si vedono e gli altri che si sentono. Devi stare molto calmo, devi stare molto calmo, devi stare molto calmo. E siamo arrivati qua alla conclusione di questa fantastica puntata sugli oriundi nella nazionale italiana. Insomma, appunto, come avete capito, molti di questi giocatori appunto sono scappati prima quando inizia l'avventura drammatica coloniale italiana, e poi ovviamente anche perché sta per scoppiare la Seconda Guerra Mondiale in Europa, e quindi insomma molti di loro se ne vanno. Però è vero anche che questi giocatori venivano a giocare in Italia proprio perché erano dei fuoriclasse internazionali e, come abbiamo visto, venivano pagati una marea di soldi e quindi accettavano di buon grado di trasferirsi in un altro paese, anche perché in quel periodo in Argentina, subito dopo il mondiale del 30, ci fu una dittatura, insomma prese il potere un tenente colonnello che si chiamava Uriburu, che di cui abbiamo parlato nella puntata precedente di Presi a Calci, che trovate sempre sul nostro sito, eccetera. Il primo sciopero contro questa dittatura fu fatto proprio dai calciatori. E quando finì lo sciopero, praticamente molti furono spediti, gli fu impedito poi di fatto di giocare, e quindi uno dei motivi per cui si trasferirono in altri paesi fu quello, e l'Italia era uno dei paesi che gli dava più soldi, e quindi decisero in molti, e poi col fatto delle parentele riuscirono a trasferirsi in Italia più facilmente. Però ovviamente dopo aver vinto trofei importanti e a fine carriera di fatto, perché insomma all'epoca appunto si giocava fino a 29, 30, 31, 32 e poi bisognava trovarsi una fatica vera, questi calciatori, diciamo, decidevano quasi tutti di tornare nei luoghi natii, no? Da Rosario appunto, oppure da Avellaneda, insomma nei vari posti. Infatti, se andate a vedere le biografie, quasi tutti sono morti da dove erano partiti, appunto perché poco gli interessava, insomma, di venire a giocare in Italia, della parentesi calcistica, insomma, che facevano nel bel paese. E quindi basta, questa è la conclusione. Adesso ci andiamo a sentire un'altra canzone, che è Susie Q di Sonny Boy Williamson, e poi mettiamo una playlist a casaccio, preparata a casaccio da noi medesimi. Well, I know the family down in the avenue. Old man Moe and Sue, they do that Susan too. They do the Susan too. Why, there ain't nothing to it. People, they just easy to do. Well, I know the man, the name of old man Moe. He got so happy, pull off all the clothes. He doing the Susan too. He doing the Susan too. while it ain't nothing to it, people just easy to do. Well, I know the lady by the name of Sister Kate. Pulled all the clothes in front of her front gate. She done the Susan Kill. She done the Susan Kill. Well, it ain't nothing to it. People are just easy to do. godevo senza freno. Quando verso la mattina arrivò la cocaina, è arrivata in un gilet, l'han venduta pure a me. 30.000 la bustina, comperai la cocaina. Se la vedeva la mamma faceva un dramma, e fu così che la misi lì in un vasetto usato di zucchero vanigliato. Ma qualcuno preparò una torta ed impastò latte, zucchero e farina con quel po' di cocaina. Nonna col curato, sua nipote col cognato, una guardia di frontiera con la vecchia cameriera, mia sorella con tre amici che gli fuma le narici, anche loro più o meno stanno godendo senza freno. Ma che strana nella Padania. La sua infanzia fu veramente difficile. Suo padre, uno dei primi militanti della Liga, la Liga Veneta, è alcolizzato, lo tirò su a botte di razzismo e odio per i meridionali. L'impatto con la scuola fu ancora più terribile. Ugo si recò a scuola e tutti i professori erano meridionali, gente che a 30 anni non aveva ancora trovato posto, nonostante avesse due lauree. La professoressa lo interrogava e diceva: Ugo, vieni qui a conferire in geografia, parlami della tua regione. Va bene, la mia regione, la Padania, a posto, due. Lo interrogavano in storia: Ugo, parlami dell'impero romano. L'impero romano era fatto da marocchini e romani che con le tasse del Veneto costruirono il Colosseo, nel quale mettevano i giovani e i bambini veneti a essere mangiati dai leoni e dai comunisti. A posto, tre. E anche in matematica, purtroppo, Ugo non andava bene. L'unica cosa che gli riusciva era la divisione. È evidente che nella mente già provata da un'infanzia difficile incominciò a crearsi una strana confusione tra sud, meridione e cultura. E Ugo aveva dei problemi con la cultura. La cultura è il sud, la cultura, insomma, un gran casino. E alla fine Ugo decise, ce l'ho duro. Ugo decise, ce l'ho duro. Ugo decise, ce l'ho duro. Ugo decise, ce l'ho duro. Ugo decise, ce l'ho duro. Ugo cresceva, ma i suoi problemi aumentavano e il suo razzismo diventò a un certo punto filosofico, mistico. Passò dall'idea di meridionale, terrone, sudicio, al concetto molto più generale di sotto. Ugo incominciò ad odiare di un odio profondo qualsiasi cosa era sotto. Tutto quello che era sotto, tutto quello che era sotto, tutto quello che era sotto, tutto quello che era sotto. Per esempio, se doveva bere del vino, lui pigliava solo il bicchiere di sopra, il resto lo buttava perché era troppo terrone. Nel suo condominio andava d'accordo con quelli del quinto e del quarto piano, ignorava totalmente quelli del terzo e del secondo, e a quelli del primo e del pian terreno gli pisciava ogni sera quando tornava a casa sul tappetino. Nella Padania, Ugo vive nella Padania, Ugo vive nella Padania, Ugo vive nella Padania. Ugo cresceva e il suo odio con lui, Ugo cresceva e il suo odio con lui, e man mano che si faceva più grande si avvicinava sempre di più dall'esterno verso l'interno, sempre più vicino, fino a quando si avvicinò al suo corpo. E Ugo incominciò ad odiare la parte sud del suo corpo, i suoi piedi stesi per terra. Per non vederli, li chiuse dentro un sacchetto di plastica e dopo mesi che non li toccava, si fece un buchettino dal quale ne fuoriuscì un fetore terribile. E per questo Ugo si convinse che i meridionali puzzano. Il suo odio saliva. Da giù verso su arrivò alle ginocchia e infine al basso ventre, col quale Ugo finì qualsiasi tipo di rapporto. Ma questo non soddisfò il suo bisogno di odio, fino a quando un giorno ebbe un'eliminazione definitiva. Ugo sarebbe stato un'avanguardia del genere umano, il primo uomo nella storia dell'umanità, che avrebbe portato alle estreme conseguenze il concetto di secessione. Sarebbe stato il primo uomo secesso. Ugo, il primo uomo secesso. Ugo, il primo uomo secesso. Ugo, il primo uomo secesso. Ugo, il primo uomo secesso. Nelle sue due o tre cellule cerebrali avvenne uno scontro che durò a lungo per decidere se il taglio doveva arrivare all'altezza dell'inguine e dell'ombelico oppure all'altezza del collo. Alla fine si decise per l'ombelico come ricordo materno. Ugo andò nel giardino, prese una motosega modello Kruger e fece un taglio retto, zac, dritto, preciso sull'ombelico. L'unico guaio fu che il taglio non venne perfetto, anzi venne un po' obliquo, per cui la parte nord di Ugo scivolò a terra e le viscere si sparsero sul pavimento in una massa gelatinosa e sanguinolente. C'erano pure delle feci. La parte sud di Ugo, diciamo dall'inguine in giù, finalmente libera da quella testa di cazzo piena di problemi, incominciò a abbandonarsi in un rito satanico di cui ignoro il significato, ma con chiari intenti di sfortò. Finalmente l'Ugo del sud e l'Ugo del nord si trovarono alla stessa altezza, solo che all'altezza degli occhi del lugo del nord c'era il fallo, in bella evidenza del lugo del sud che si abbandonava in queste danze a noi sconosciute. La storia andò avanti per un bel po', fino a quando Ugo del Sud, che aveva preso tutti i vizi possibili e immaginabili, per esempio quello di fumare, non mi chiedete come sia possibile che un uomo senza bocca possa fumare, perché non lo so. Eppure l'Ugo del Sud fumava e un giorno, con l'accendino col quale giocava continuamente, appiccò un fuoco nella casa dove vivevano i due Ugo. E in quel momento preciso l'Ugo del Nord si rese conto di avere fatto un grosso errore, perché senza gambe non si va da nessuna parte. L'Ugo del Sud, contento di quelle fiamme che si avvicinavano sempre di più all'Ugo del Nord, scappò giù nel giardino e l'Ugo del Nord non riuscì a fare niente di meglio che prendere la cassa, stringerla al petto e aspettare la morte che si avvicinava. Questa è la storia di Ugo, il primo uomo secesso. Ugo secesso, sei sei secesso, Ugo secesso. Ugo secesso, sei sei secesso, Ugo secesso, Ugo secesso, Ugo secesso, sei sei secesso, Ugo secesso, Ugo secesso, Ugo il primo uomo secesso, Ugo il primo uomo secesso, Ugo il solo uomo secesso.